Mi sono sempre sentito in imbarazzo trattare l'argomento della sincerità per invitare il prossimo ad essere sincero, genuino, schietto. Mi sembra un gesto contro natura, come invitare le persone a respirare. Non ha senso. Eppure verso i 40 anni ho preso coscienza quanto la società sia impregnata di falsità e quanto sia difficile per l'uomo essere sincero. Non solo. Come credente nel leggere le scritture ho notato quante volte Dio tramite i profeti e gli apostoli abbia rimproverato il suo popolo della mancanza di sincerità e quante volte abbia ordinato di dire sempre la verità, di essere sinceri. Un simile ordine rivolto a dei figli di Dio mi era sempre sembrato fuori luogo, espressione questa più che appropriata, perché potevo anche capire l'ordine rivolto a chi non aveva consacrato la sua vita a Gesù Cristo. Ma a dei figli di Dio un ordine del genere per me era proprio fuori luogo, fuori posto. Pensavo che una volta ricevuto lo Spirito Santo, diventando una nuova creatura, un figlio di Dio, automaticamente dicesse sempre la verità. Ma evidentemente le cose non sono così automatiche. Proprio perché per tutti è difficile essere sinceri, è opportuno prendere in esame l'ordine di dire sempre la verità. Questo dunque è testo nel Signore, che non camminiate più come camminano ancora gli altri gentili, nella vanità della loro mente, ottenebrati nell'intelletto, estranei alla vita di Dio, per l'ignoranza che è in loro e per l'indurimento del loro cuore. Essi, essendo diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo ogni impurità con insaziabile bramosia. Voi però non è così che avete conosciuto Cristo, seppure gli avete dato ascolto, siete stati ammaestrati in Lui secondo la verità che è in Gesù per spogliarvi per quanto riguarda la condotta di prima dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo delle concupiscenze della seduzione, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente e per essere rivestiti dell'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. Perciò, messa da parte la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo perché siamo membra gli uni degli altri. Efesini 4, 17 e 25. L'Apostolo Paolo, rivolgendosi a dei credenti, ha terminato questa parte della sua lettera con un perciò, una parola che è la conclusione di tutto un ragionamento che dobbiamo seguire. L'ordine che Dio rivolge a tutti i suoi figli è quello di non comportarsi come si comportano gli increduli, perché se veramente hanno conosciuto Cristo quale Salvatore e Signore, il loro comportamento deve essere caratterizzato dalla santità. Proprio per questo, dice l'Apostolo Paolo, per prima cosa deve coinvolgere il nostro parlare nel dire sempre la verità. Ma l'Apostolo Paolo dà un'altra motivazione che non deve sfuggirci. Dobbiamo dire la verità al prossimo perché siamo membra gli uni degli altri. Questo aspetto non deve sfuggirci. Essere membra gli uni degli altri significa che tutto ciò che facciamo o diciamo al prossimo non ci lascia immuni o incolumi, ma, come un boomerang, torna indietro e ci coinvolge. E, come per l'inquinamento del terreno, se io do dei diserbanti perché non cresca l'erba, le piante si nutrono di questi veleni e me li ritrovo nella frutta che mangio. Se io sono un figlio di Dio e gli altri fanno parte della mia vita spirituale e comunitaria, significa che, compiendo il male nel dire bugie o altro, prima o poi ritrovo le conseguenze del mio insano comportamento. E così vale anche per il bene. Se io faccio un favore alla comunità nella quale sono inserito, faccio pure un favore a me, perché il bene della comunità si riflette anche su di me. E per questo che per un figlio di Dio è veramente assurdo mancare di sincerità, perché se non dice la verità solo per il fatto che è contrario alla giustizia, la dica almeno per il suo bene. Ma noi siamo talmente malvagi per natura che pur di colpire, pur di mentire, siamo pronti anche a subire le conseguenze dei nostri errori. È proprio vero quello che dice il proverbio. La lingua bugiarda odia quelli che ha ferito. Proverbi 26-28. Non si tratta dunque solo di mentire, ma la mancanza di sincerità è anche il risultato dell'odio. È difficile per noi accettare una simile sentenza, perché a volte si dicono delle menzogne senza avere un animo propriamente inasprito o avvelenato, ma quando la parola di Dio si riferisce all'odio non fa tanto riferimento ai sentimenti, ma al comportamento. Purtroppo, poiché secondo la nostra cultura noi siamo abituati a valutare i nostri sentimenti quando compiamo delle azioni, abbiamo perso il vero significato dell'odio. Ogni parola o gesto che manca di sincerità è odio per il Dio delle Sante Scritture. Proprio perché la sincerità è rara, il re Davide si espresse così nel Salmo 51. Ecco, io sono stato formato nell'iniquità, e mia madre mi ha concepito nel peccato. Ma a te piace la sincerità che risiede nell'intimo, e mi insegni la sapienza nel segreto del cuore. Salmo 51, 6-7. Questa espressione di Davide acquista un maggior significato se consideriamo il contesto storico. Davide peccò di omicidio e di adulterio, facendo uccidere uno dei suoi migliori soldati per poterne sposare la moglie che aveva reso illegalmente incinta. Dopo aver riconosciuto i suoi peccati, il re rivolge questa preghiera dicendo che a Dio piace la sincerità interiore. Certo, Dio richiede la santità ai suoi figli, ma poiché egli si ricorda che siamo deboli, mancanti, soggetti a peccare, egli desidera soprattutto la sincerità, l'onestà. Davide non dice per lo Spirito Santo che Dio ami colui che è perfetto, benché richieda la perfezione, ma che egli guarda in modo favorevole colui che dice le cose come l'ha nel cuore. Proprio perché essere sinceri non significa essere sempre perfetti. Proprio perché la perfezione non è di casa nella nostra esistenza, Dio ripiega nel ripiegabile. Se non puoi essere perfetto, egli potrebbe dire, almeno sii sincero. In definitiva, possiamo dire che Dio ama chi sbaglia con sincerità. È un po' l'atteggiamento che noi abbiamo verso i bambini quando senza malizia commettono degli errori. Non abbiamo verso di loro nessun sentimento negativo, anzi, in noi nasce una grande simpatia e tenerezza. E così è Dio verso i suoi figli che vivono come dei piccoli fanciulli in quanto a malizia. Colinzi 14:20. Li ama. Gli piace la loro sincerità. Purtroppo, molti figli di Dio si preoccupano della forma perché questa vada bene alla Chiesa senza preoccuparsi della sincerità del loro cuore. Una simile condotta religiosa non porta nessun frutto. Non conduce l'anima presso il trono di Dio e impedisce di conoscere i profondi misteri della Deità. Porta a avere la forma della pietà, ma rinnegandone la potenza. La sincerità nell'interiore ha il suo prezzo. Camminare ed esprimersi secondo quanto si ha nel cuore non sempre unisce agli uomini, ma di certo unisce a Dio. Non sempre è gradito agli uomini, ma è di certo gradito a Dio. Come sta scritto, le labbra bugiarde sono un abominio per l'Eterno, ma quelli che agiscono lealmente gli sono graditi. Proverbi 12:22. Sta scritto nella parola di Dio che è beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è è inganno. Salmo 32:2. Vi è dunque una prospettiva di beatitudine per chi non ha malizia. Che il nostro obiettivo sia avere sempre la sincerità nel cuore. E per ottenere questo risultato teniamo presente quattro pericoli. Vi è un amore che non è sincero. L'amore sia senza ipocrisia. Romani 12:9. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione, amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore. 1 Pietro 1:22. Sia l'Apostolo Paolo che l'Apostolo Pietro hanno ordinato ai credenti di avere un amore sincero. Non credo che sia stato un caso che ambedue abbiano dato lo stesso ordine. Perciò anche al tempo dei primi cristiani, l'amore fraterno non era espresso con tutta la sincerità dovuta. Vi è pure una fede finta. Ora il fine del comandamento è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede non finta. 1 Timoteo 1:5. Nessuno dovrebbe vergognarsi di esprimere la sua fede così come l'ha. Davanti a Dio è più grave una simulazione di fede che una poca fede. Gesù ha condannato i giudei che facevano professione di una fede finta e non i suoi discepoli che avevano poca fede. Un altro pericolo dal quale dobbiamo guardarci è usare la parola di Dio senza la dovuta sincerità. Noi non falsifichiamo infatti la parola di Dio come molti altri. ma parliamo in sincerità come da parte di Dio davanti a Dio in Cristo. 2 Corinzi 2,17. Succede spesso che noi facciamo dire alla parola di Dio ciò che più ci aggrada. La parola di Dio viene compresa non in proporzione alla nostra cultura o intelligenza, ma in proporzione alla nostra sincerità. Noi dobbiamo temere una mente ben fornita e un cuore sleale. Infine si manca di sincerità. Quando si mormora, fate ogni cosa senza mormorare e senza dispute, affinché siate irreprensibili e schietti. Filippesi 2, 14-15. La schiettezza non nasce come la gramigna, ma è una pianta delicata e rara. E per coltivarla è indispensabile avere un cuore sgombro da sentimenti negativi. Il mormorio e le dispute sono veleni che uccidono le piante e i frutti più preziosi. Perciò nessuno può essere sincero se ha un amore e una fede finti, se legge la parola di Dio con pregiudizi, se ha un cuore inquieto e cerca sempre il contrasto con il prossimo. Non dobbiamo ingannarci, noi raccoglieremo ciò che seminiamo. Se siamo sinceri e disposti a pagarne il prezzo, glorificheremo Dio, faremo del bene al prossimo e a noi stessi, diversamente non abbiamo nessuna prospettiva di bene. Come disse l'Apostolo Paolo, la grazia sia con tutti quelli che amano il Signor nostro Gesù Cristo con sincerità. Efesini 6 e 24. Gennaio 2005. Ellero.